Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, una nuova domenica tutta per noi. Cerchiamo di girare in positivo questo tempo costretti in casa. Andiamo alla scoperta, per ora virtuale, delle bellezze del nostro paese e delle possibilità che si potrebbero aprire in estate. Il sommario. Questa settimana entriamo a Villa Litta, a Lainate, provincia di Milano. Una villa con un nome lungo e una storia altrettanto intensa. Poi lanciamo per un momento il cuore oltre l'ostacolo per parlare di una possibilità per le vacanze, augurandoci che sia possibile. E poi qualche consiglio per un buon documentario in TV. Stendhal scriveva di Lainate, un giardino pieno di elementi architettonici di proprietà del Duca Litta. Mi è piaciuto. Villa Litta è un gioiello dell'architettura, uno dei tanti del nostro paese, poco conosciuti. In queste settimane vogliamo trovarne e raccontarne quanti più possibile. Livia Cornaggia, architetto e direttrice del Museo Tattile di Varese, è la nostra guida. And now the final. Ciao Livia, buon pomeriggio, ben ritrovata. Ciao Valeria, buon pomeriggio a te e grazie. Allora, in questo nostro percorso, in questa nostra scoperta di quelli che sono i territori del nostro paese che in questo momento non possiamo fisicamente andare a vedere, ma cerchiamo di descriverli in modo tale da far viaggiare la nostra fantasia e la nostra immaginazione, questa domenica arriviamo a Lainate. E tu ti chiederai perché Lainate? Beh sì, un po' sì, in effetti. Perché Lainate, per chi non è milanese lombardo, è una cittadina molto piccola che fa parte dello strettissimo hinterland milanese e che non viene normalmente considerata come una destinazione turistica di pregio. Non ho mai conosciuto nessuno che abbia avuto come sogno di viaggio quello di andare a Lainate, in verità. Eppure a Lainate c'è una cosa assolutamente straordinaria, c'è un edificio che viene considerato uno dei più importanti esempi di architettura di genere di tutto il nord Italia, che è Villa Visconti Borromeo Arese Litta. Il nome è un po' lungo, ma il palazzo, scopriremo, è meraviglioso. Allora, la storia di Villa Litta, la abbreviamo così perché altrimenti è un pochino lunga, nasce da un'intuizione, da una trasformazione alla fine del Cinquecento. Pirro I Visconti Borromeo, che era un mecenate illuminato, non molto conosciuto in verità, aveva visitato e amato le ville medicee toscane. Sulla falsariga delle ville medicee toscane decide di trasformare uno dei propri possedimenti agricoli in quelle che all'epoca erano le ville delle delizie, quindi dei luoghi di svago, dei posti meravigliosi nei quali trascorrere il tempo e ospitare i propri amici. Quindi la immagina, la progetta, stabilisce come trasformare la struttura agricola originaria in una residenziale, tratteggia il parco e più di tutto immagina il ninfeo. Il ninfeo era quella struttura che a partire dalla civiltà greco-romana indicava un luogo d'acqua, quindi uno spazio nel quale vasche, piante acquatiche, decorazioni, statue, eccetera, eccetera, permettevano di trascorrere il tempo e l'ozium in un modo particolarmente piacevole. Di fatto il ninfeo costituisce l'elemento più straordinario di Villa Litta. Quindi Pirro I la pensa come un luogo per ospitare ricevimenti, per fare feste, ma anche come luogo per ospitare letterati, scrittori e sovrani e quindi per affermare in qualche modo il proprio mecenatismo, il proprio potere. Self-professed. spesse volte capita che una struttura architettonica in realtà racconti bene una volontà sociale, economica o politica di un signore del tempo. Sicuramente l'architettura in questo, come dire, ci indica molto e ci dà tanti suggerimenti del tempo in cui viene pensata. Assolutamente, attraverso una valutazione del perché un edificio è stato costruito in un certo modo, in un certo luogo o con determinate modalità, siamo in grado di imparare e capire un sacco di cose. L'architettura in qualche modo si riallaccia a tutte le discipline, è in grado di parlarci della meteorologia, è in grado di parlarci della storia, è in grado di parlarci della geografia, è in grado di parlarci, come in questo caso, della politica. Pirro I decide di fare una mossa, tra virgolette, un po' politica nel trasformare una cascina in una villa delle delizie, perché è un modo per affermare un potere, una signoria in un momento nel quale la zona di Milano combatteva in un equilibrio un po' complicato tra potere centrale e potere delle signorie. Senti Livia, come si presenta questa villa? Questa villa è meravigliosa, nel senso che attualmente, e noi la stiamo vedendo e la possiamo visitare oggi per come poi si è trasformata nel corso di 4 secoli, ha due costruzioni che chiudono questa sorta di meraviglioso cortile, che hanno una natura anche architettonica molto diversa, perché sono state costruite in epoche diverse, quindi la trasformazione iniziale risale al 500, l'aggiunta, che è quella del palazzo occidentale, risale all'inizio del 700, quindi un secolo e mezzo dopo. Quindi abbiamo la parte costruttiva con due nature diverse. Al cui interno troviamo invece sale infinite, sale da ballo, sale della musica, affrescate, decorate, nuovamente piene di stucchi in tutti e due i casi, nel caso di tutti e due gli edifici. E poi troviamo questo parco di 40.000 metri quadri, che anch'esso è stato sviluppato nel corso dei secoli ed è stato profondamente trasformato, perché Valeria, esiste nel corso della storia una moda anche per quanto concerne la botanica. Ci sono state delle mode che si sono succedute, per cui i giardini delle grandi regge, dei grandi palazzi hanno cambiato profondamente natura. Quello di Villa Lita non fa eccezione, per cui per esempio sono state a un certo punto costruite le serre, è stata creata la carpinata, che è un percorso lungo 800 metri, costituito da carpini potati a volta, è stato creato il teatro di verzura, che è una sorta di teatro naturale, di emiciclo naturale di alberi di tasso nel quale si facevano rappresentazioni teatrali e musicali. Quando è nata la moda del giardino all'inglese, quindi in epoca ottocentesca, è stato creato quello che si chiama il nuovo boschetto. E poi c'è, diciamo, non al centro, ma come centro concettuale di questo parco meraviglioso, il Ninfeo. Il Ninfeo è un insieme di sculture, di vasche, di decorazioni, di giochi d'acqua spettacolari, nei quali, nell'idea appunto iniziale di Pirro I, si doveva trascorrere il tempo nell'ozium romano. Nel corso della sua vita Villa Lita ha ampliato e trasformato questo Ninfeo. La cosa straordinaria è che in tempi abbastanza recenti sono stati acquisiti dei mastri acquaioli che tengono in vita anche l'attività del Ninfeo, per cui i giochi d'acqua che erano stati ideati sono ad oggi ancora visitabili e visibili, che è la cosa che rende questa villa davvero unica, perché molto spesso i ninfei si vedono fermi, in questo caso si vedono con i giochi d'acqua in perfetto funzionamento. Tra l'altro Livia, è bene ricordare che di solito d'estate qui a Villa Litta si tengono anche tanti concerti, quindi la villa è aperta di sera e diciamo ed è fruibile per tutto questo tipo di pubblico. Adesso noi speriamo che da qui all'estate tutto questo possa riprendere, ma nel frattempo vi abbiamo accompagnato per Villa Litta con le immagini che ci si sono aperte nell'immaginazione. Grazie Livia. Grazie a te Valeria, buona giornata. In questo periodo è stato necessario rivedere molte scelte e molte prenotazioni. Paolo Della Pepa, amministratore delegato di FlyCube, ci spiega come si stanno muovendo e i progetti per il futuro che non si fermano. Ora al momento tutti i viaggi programmati, già ovviamente acquistati da noi per i nostri clienti attraverso i nostri provider, hotel e voli, tutti i viaggi che sono già stati acquistati, stiamo parlando con le compagnie aeree, gli hotel, tutti i provider per poter rimborsare quanto prima i clienti, cancellare voli o posticiparli. Mentre tutti gli altri clienti che hanno comprato da poco e che viaggiavano nei prossimi 1, 2, 3 mesi, vengono posticipate tutti i viaggi. Chiamiamo singolarmente, ogni caso è a sé per noi. Quindi chiamiamo tutti i clienti singolarmente e proponiamo date da settembre o addirittura dal 2021. Non sappiamo come sarà la situazione, per questo dicevo incerta, quindi diciamo a sei mesi a vista, come si dice, e li riserviamo per quelle date. I clienti rispondono bene da questo punto di vista, ovviamente, perché il viaggio a sorpresa non deve essere un incubo, deve essere una cosa bella, una cosa misteriosa, una cosa interessante. Non è assolutamente il momento di proporre una soluzione di intrattenimento così. Quindi ne siamo consapevoli e stiamo facendo di tutto per posticiparli. Sicuramente questo non è il momento per anche solo per pensare, diciamo, al viaggio a sorpresa, però immagino che voi vi stiate già muovendo per il dopo, perché un dopo ci sarà, sarà un bellissimo dopo, magari avremo tutti voglia di cercare di lasciarci alle spalle questo periodo, anche se ci avrà insegnato delle cose, quindi immagino che vi stiate già muovendo anche per questo. Assolutamente sì, il calendario con le date è attivo, quindi è ancora possibile comprare attraverso FlyCube, siamo comunque l'azienda di riferimento per i viaggi a sorpresa a livello europeo. Semplicemente quello che facciamo, consigliamo ovviamente nei prossimi mesi di non viaggiare, di riservare i nostri prodotti per le date successive all'estate o da settembre. Sì, non ci fermiamo a livello di vendite semplicemente perché ovviamente c'è un'azienda, abbiamo dipendenti, abbiamo una crescita forte, quindi cerchiamo di fare il tutto per mantenere l'azienda stabile e ovviamente mantenere contenti i nostri clienti. State ideando cose magari più particolari, perché immagino che questo periodo stia stimolando anche un po' la creatività, anche per far tornare più velocemente il sorriso anche a chi poi viaggerà in futuro. Sì, a livello social già abbiamo cominciato, noi abbiamo sempre, i nostri social sono sempre idee ironiche, messaggi ironici, magari un po' di ironia ovviamente con le pinze sul coronavirus ovviamente, però cerchiamo comunque di mantenerci positivi. E per quanto riguarda poi le vendite in sé, i pacchetti che offriamo, siamo proprio oggi e ieri abbiamo cominciato con le riunioni per alcuni nuovi pacchetti, nuovi prodotti temporaneamente, o magari i prodotti potranno funzionare più avanti, però sempre con coscienza, ovviamente. Noi ci fermiamo solo per qualche istante, restate con noi. One Express, One Express, il pallet Express. Vi presenta Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Bergamo ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, con i suoi medici e tutto il suo personale, stanno lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag sole per ospedale Bergamo. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Globetrotter 24. Ci saremo lasciati alle spalle tutto questo, speriamo sarà arrivato il momento di potersi prendere una pausa, una vacanza. Uno spunto potrebbe arrivare da AgriCamper, una modalità alternativa di muoversi in camper. L'idea è nata a Pauline Nava, imprenditrice francese. 10 anni fa avevo un vecchio Volkswagen Combi e viaggiavo spesso e non mi piaceva andare nei campeggi perché erano posti un po' affollati e allo stesso tempo non mi piaceva sostare in mezzo al nulla, non mi sentivo in sicurezza. E purtroppo dopo ho dovuto vendere il mio Volkswagen e 2 anni fa, tra questi 10 anni tante cose sono cambiate, sono arrivata in Italia, mi sono sposata con 2 bambini e 2 anni fa ho guardato per fare le vacanze in camper perché pensavo che era magari una buona idea con i bambini, poi sostare dove vuole, se hanno bisogno di fare la nanna e queste cose. E ho trovato France Passion, che è lo stesso adesso sistema che sviluppo qui in Italia, che tu puoi sostare nelle aziende agricole gratuitamente, pagare una guida e sostare nella natura, e questo mi ha piaciuto tantissimo perché è un po' in via di mezzo tra il campeggio classico e la sosta libera. Quindi ho lavorato e adesso è pronto AgriCamper Italia. Adesso però tu ci devi un po' raccontare come funziona nella pratica, quindi metti che quest'estate tutto sarà tornato, diciamo, più o meno alla normalità, e noi ce lo auguriamo ovviamente, e vogliamo restare in Italia e vogliamo spostarci attraverso una vacanza in camper. Spiegaci un po' come ci dobbiamo orientare. Sì, allora è molto semplice, c'è il sito internet dove tutto è spiegato. Allora, se avete un camper autonomo in elettricità qua e vicino, potete fare l'iscrizione. Il servizio costa 29 € per un anno per 365 giorni e con questa adesione potete sostare gratuitamente per 24 ore dalle nostre ospite del circuito. Pauline, parlaci un po' di più di questo circuito, perché sì, immagino ci sia appunto un network di aziende agricole. Raccontacele un po'. Sì, allora abbiamo una centinaia di strutture ospite, ogni giorno riceviamo delle richieste, piano piano cresce e anche questo è l'avvantaggio che è tutto online in digitale, non siamo fermi per un anno, è sempre in crescita. Abbiamo tante strutture agricole, tanti vignaioli, anche birrifici artigianali, agriturismi. Possiamo anche avere delle strutture sportive tipo equitazione, tutto legato al turismo rurale, alla struttura agricola. E che cosa succede? Io chiedo evidentemente di essere ospitato, e qual è il rapporto che si crea tra me, che scelgo una determinata azienda agricola, e il proprietario o la proprietaria? Allora, scrivendo al sito avete accesso all'elenco di tutte le aziende agricole con una scheda fatta con una mappa, con l'itinerario, il nome dell'azienda, l'indirizzo, il sito internet, telefono e anche le coordinate GPS e una descrizione di cosa fanno e anche delle foto. E anche i commenti, così potete valutare la sosta sull'accoglienza, ma anche il posto se è bello o piacevole. Quasi tutte le strutture agricole chiedono una chiamata solo per confermare che sono disponibili per accogliere i camperisti, e dopo arrivate sul posto, vi presentate, loro indicano il posto dove sostare e dopo siete liberi di stare un giorno. Tanti propongono delle attività, tipo un circuito nei vigneti, una visita della cantina, degustazione, e siete liberi di fare questa attività o no, ovviamente. C'è tanti camperisti che comprano qualche prodotto per ringraziare dell'ospitalità. Diciamo, questi camperisti vengono ospitati a titolo gratuito. Sì, sì, esattamente, a titolo gratuito. Senti, Pauline, dove sono collocate queste aziende agricole per lo più? O hai tutto il territorio nazionale a disposizione? Sì, c'è tutto il territorio nazionale a disposizione, purtroppo abbiamo un po' meno strutture agricole nel sud, ma l'idea è veramente di essere presenti dappertutto. Per il momento le zone più rappresentate sono Veneto, Piemonte, queste zone. Avete la mappa sul sito internet dove potete vedere tutte le nostre strutture prima di aderire. Vorrei sapere se hai già avuto, come dire, un riscontro pratico di interesse, perché il turismo rurale è molto cresciuto negli ultimi anni. Sì, abbiamo aperto le vendite dell'adozione venerdì e ho già avuto centinaia di iscrizioni, sì, e anche tante domande sul chat. Penso che sì, c'è una domanda per questo tipo di turismo più vicino alla terra, alla tradizione, a tutte queste eccellenze italiane. E anche un po' più lontano dalla folla, che ai noi in questo momento è condizione necessaria. Sì, esattamente, sì. Ho coinvolto nell'avventura di Globetrotter anche la collega Marta Cagnola e le ho chiesto di selezionare qualche consiglio su documentari da cui lasciarsi affascinare comodamente seduti sul divano. Come viaggiare senza viaggiare? Accendiamo la TV, il tablet, persino lo smartphone e colleghiamoci alle nostre piattaforme preferite. The Native Americans who first came and set eyes on these lakes and mountains encountered a vast wilderness, an entire continent that still lay wild and free. Su Netflix c'è la National Parks Adventure, viaggio nei grandi parchi americani insieme a Robert Redford. C'è il bellissimo Mountain di Jennifer Pedon, che porta gli spettatori in cima alle montagne più spettacolari del mondo. Ma si viaggia anche per mangiare, come nel Carnivoro con Steve Rinella e con David Chang in Ugly Delicious. Non mi faccio la doccia da 3 giorni. Sembro un calciatore di serie B. Durante la nostra avventura abbiamo attraversato per migliaia di chilometri il deserto a bordo di un'auto a noleggio e ne abbiamo viste di tutti i colori. Se va a finire così arriviamo in Cina. Su Amazon Prime Video si può girare tutto il mondo con i viaggi a rallentatore di Gabriele e Ludovico, che hanno scelto mezzi di trasporto decisamente non convenzionali, oppure con la Oman Expedition dei runner Omar e Davide, che attraversano un deserto in un'impresa mai tentata prima. Per chi ha nostalgia della montagna, da non perdere Riafn, il pluripremiato documentario di Hannes Lang sul panorama sonoro delle Alpi. In Myanmar i treni sono come una ninna nanna, un po' vigorosa. Ma a volte vorresti quasi che fossero ancora più lenti, talmente è bello lo spettacolo che offrono. Esplorerò in treno tutto il paese e conoscerò la gente del posto. Su Sky Go invece c'è la serie sugli incredibili viaggi in treno del giornalista Philippe Gouglet, i viaggi del reporter Simon Reeve, ma anche il viaggiatore Antoine, che gira in lungo e in largo l'Italia in Posso dormire da voi. E su Rai Play? Se vi fosse offerta la possibilità di un viaggio gratis, anzi, come dicevano i nostri vecchi con una frase sacramentale, un viaggio pagati e spesati di tutto. Che viaggio fareste? Impossibile non citare il capostipite di tutti i viaggiatori curiosi, Mario Soldati. Il suo viaggio nella Valle del Po del 1957, ma anche chi legge Viaggio lungo il Tirreno, sono le avventure più belle e poetiche della storia della televisione italiana, da rivedere per viaggiare nel nostro paese e indietro nel tempo. Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.